Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci, buon pomeriggio a tutti voi in contatto con il Soundcheck di Radio 24 qui dal Groove Master Studio. Buon pomeriggio da Gegè Telesforo, buon pomeriggio al nostro Francesco Tromba, ancora scosso dall'incontro che abbiamo fatto ieri qui in studio con il bravissimo Felice Limosani. Sì, io ero affascinato, quasi incantato dalle sue parole, è riuscito ad aprire il suo mondo a tutti gli ascoltatori, è molto bravo in questo. Molto bravo, tra l'altro anche molto modesto, non si considera un artista, però ha una testa creativa meravigliosa. E tra l'altro mi ha anche molto colpito perché subito dopo la trasmissione, uscendo, ha fatto: ah, porca miseria, mi sono dimenticato di salutare mia moglie, l'ha chiamata subito. Eh sì, quasi a scusarsi di essersi dimenticato di salutare. Bene, quindi se ieri abbiamo parlato con Felice Limosani, che è impegnatissimo lì all'Expo di Milano nel padiglione di Cibus con tutte quelle installazioni, e anche a Palazzo Vecchio a Firenze con un'installazione meravigliosa che si intitola Magnificent. Sì, esatto. Esatto. Allora, oggi parliamo di sempre di comunicazione, ma vorrei farvi raccontare da un vero esperto reduce proprio degli anni 70 i 10 comandamenti dello showbiz americano. Ladies and gentlemen, please welcome at the great, the one and only Mr. or Professor Larry White. Grazie per l'invito, sono felice di stare qui. Oggi sono arrivato con... you sai come sono arrivato? No. Got here on my good foot. Get up, get it on your good foot, yeah. Sono felice di stare qua. Molto contento. Senti Larry, sono felice di vederti, di trovarti in forma, e vorrei parlare subito di questi 10 comandamenti dello show business. Da dove arrivano e li hai scritti tu per esperienza? No, non vorrei essere padrone di queste cose qui, però attraverso l'esperienza di experience. Life experience in the big esperienza American di vita nella musica. World. Chi è questo piccolo uomo? È il professor Francesco Tromba. Dottore Francesco Tromba, non professore. Ah, Tromba. Sì. Anche io ogni tanto, però non... Andiamo avanti, vabbè. Larry. Ah, no, non l'ho scritto io, però è l'esperienza che ho preso, ho radunato queste cose in sequenza per tutti i grandi piccoli musicisti del mondo, quelli che vogliono entrare nella musica del funk, del blues, and rhythm. Quindi tu questo papiro, vedo questo pezzo di carta, che è proprio un papiro, guarda, quasi non si può toccare, che si rompe. È proprio, la data, qual è la data? 1956. 1956. 56. Ammazza, quindi stiamo proprio al periodo qua, pre-soul addirittura. Sì, super old school. Very old school. Ok, allora, vediamo, partiamo con il primo comandamento. Ok, the first commandment, number one. Che is... fai, in inglese o in italiano? Lui traduci. Traduci tu, Tromba? Sì, traduco io. Traduci, Tromba. Traduco. Ma ok. Know everybody, but mind your own fucking business. Ecco, attenzione alla traduzione però, cerca di renderla elegante. Conosci tutti, però fatti i fatti tuoi. No, no, non fatti, no, cazzi tuoi. Che è diverso, l'atteggiamento è diverso, ma è più forte, è più incisivo. Tu devi entrare nell'anima, nel soul della faccenda. Spieghiamo il primo comandamento, perché okay. Il primo se comandamento tu stai davanti a un palcoscenico con tutti i più grandi, i Temptations, i Four Tops, Aretha Franklin, all the wonderful stiamo people. Stiamo parlando proprio di... tutti questi grandi, tu dici, ti conosci, e che ci fai? Non niente. Tu devi fare i cazzi tuoi, capito? Questo non puoi inventare niente di fronte a questo. Tu devi conoscere bene, interpretare dentro la tua anima. Allora, riportando questo primo comandamento anni 70 al 2.0, come possiamo interpretarlo? Funziona? Sì, è ancora valido, anche soprattutto in Italia, perché spesso nel mondo della musica partono delle polemiche inutili e autoreferenziali quasi. Allora, Larry... Non ho detto macchina, no. Che cosa? Ha parlato della macchina. Quale macchina? Non lo so. Dopo questo, ha detto l'auto. No, dopo parliamo uno dei comandamenti. Facciamo il secondo, lo facciamo dopo, Larry. Ti voglio dire una cosa, Larry. Sono già stanco. Ladies, you can like this al soundcheck. Mr. Larry White è ospite del Soundcheck per i 10 comandamenti, regole importantissime per affrontare lo showbiz. Naturalmente, voglio precisare, sono dei comandamenti che sono stati tirati giù da Larry White per esperienza diretta, delle regole che arrivano proprio dal 1956. Ma sicuro che 56 e non 66? Ho preso questo dall'armadio della mamma di Otis Redding. He was a little boy at the time. Come fai a inventare queste cose? Larry White. No, allora andiamo. Comandamento numero commandment number two. Can I go? Yes. Get your money in advance. Fai i soldi. Fatti pagare in anticipo. Yes, e questa è una bella regola. Ecco, anche in Italia questa dovrebbe funzionare, perché adesso non è più così. Prima devi fare la fattura, poi ti mandano l'accredito. Invece questa è una regola importante per lo spettacolo. A gun helps a lot, a pistola aiuta molto. Ma me lo ricordo pure io, 20 anni fa, prima di salire sul palco venivi pagato, magari con bigliettoni da 1000 lire. Vabbè. Yeah, the dollar bill, the greenback, get the money. Yeah, ok. Allora, questa è il secondo comandamento. Fatti pagare in anticipo. Questo mi piace molto. Andiamo Number three. Talk good about people that are physically stronger than you are. Questo è molto bello. Parla bene delle persone che sono fisicamente più forti di te. Perché? Per esperienza diretta? Perché no, se no ti fanno un culo così. Questo è fatto. Non è brutto essere picchiati anche ingiustamente. Tu magari dici quella persona lì è zoppica, ha detto la bugia, e lui ti fa un culo. Quello è il mio idolo. Ecco, il mio idolo. Esperienza diretta. Sì, quello lì stiamo parlando di Muhammad Ali. Muhammad Ali difficilmente. He was the funkiest of the funkiest. He knocked out Sonny Liston. You know Sonny Liston? Sonny Liston was a bad motherfucker. Sonny Liston was bad. He clipped him on the chin. Non riesco ad andare avanti. Allora tu devi parlare bene di Sonny Liston, hai capito? Sì, ma certo che parlo bene di tutti, perché mai parlare male di uno che è più forte di te. Lo abbiamo capito. Gregory Porter, ecco, per esempio Gregory Porter è alto 2,5 metri, The In Crowd. I'm in with the in crowd. I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know what the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Nice it feels. Soundcheck. Il suono della musica. Questo brano lo abbiamo messo in onda per celebrare la presenza del nostro Larry White con i suoi 10 comandamenti per sopravvivere nello showbiz americano, però il tutto riportato agli anni 50, 60, 70, perché adesso queste regole non so se possano funzionare. Poncho Sanchez, maestro conghero, che ha anche militato nella JB Orchestra, quella di James Brown, infatti il brano era Out of Sight qui al Soundcheck di Radio 24. Andiamo avanti con i comandamenti. Francesco, stai prendendo nota? Sì, tra l'altro queste prime tre regole sono valide anche proprio come regole di vita quasi. A me è piaciuta molto quella fatti pagare in anticipo. Quella è sempre valida. Sempre valida. E poi non provocare chi è più forte di te. Andiamo col comandamento Larry White numero 4. Number four. Piano, facci sentire bene. You ready, Mr. Trumba? Sì, siamo pronti. That's a good name. Good name. Sì, un bel nome, Trumba. Mr. Horn. Mr. Horn. And he could be horny. Larry, andiamo avanti. Horny. Siamo ancora al quarto comandamento, dai. Okay. Don't get screwed when you're screwing. quindi non farti trapanare, non farti trapanare, non ti fare foto, abitare, non ti fa, però non, scusa, non è abitare, scusami, non ti fare trombare quando trombi, questo è meglio per lui, si può dire così. Ma c'è un modo più delicato per dire queste cose, non c'è modo, non c'è bisogno, perché dovevi dirlo prima quello delicato, adesso è inutile. Watch where you keep your pants, fai attenzione dove lasci il calzone. Certo. Però diamo una spiegazione. I calzoni, tu devi uscire, qualcuno di fuori, ma diamo una spiegazione, che c'entra questo comandamento nello showbiz? C'entra, scusa, che tu stai lì, stai facendo quella cosa tua, no? Di solito si fa subito prima, perché è bello. Prima di che? Dello spettacolo? Sì, perché fa muovere il funk, no? Tu esci fuori. Sono le 15:30, ci sono i bambini in ascolto, su. Questo va bene. Sono in macchina con i genitori, lo sappiamo. E se tu stai facendo quella cosa lì, è quello ti frega il calzone. Resti in mutande, dai. Resti in mutande, dai. Andiamo avanti col comandamento numero... Number no, bisogna five. Tagliare. Number five. Always have good breath. Ecco, cerca di avere sempre un alito profumato. Sì, profumato. Ecco. Ma che c'è? Beh, lo capisco, per noi che facciamo radio. Se tu fai cantante, no? Se tu suoni la tromba, come tromba qua, e soffi dentro il saxofono, no? Un bel Selmer, e cioè... da lì esce il profumo cattivo, quello non va bene, no? Tu c'hai tutta l'orchestra, devi portare rispetto all'orchestra. You must have respect. Suck it to me, suck per esempio, it to me, suck it. Give me a little respect, yeah. Larry, tu che hai conosciuto i grandi artisti, qual è l'artista con l'alito più profumato in assoluto? Oh, that's a good question. That's a good question. I think it was. È una bella domanda. Aretha. Aretha had. Aretha Franklin. Aretha, Aretha had, Franklin. She had breath like lilies. Like lilies, like come si dice lilies? La violetta, che cosa? Yes, violetta, she was sweet. The breath, but everything else was bad. Un alito come una violetta, quello di Aretha Franklin. Vabbè, non so che alito hanno i Fat Freddy's Drop che lo vengono dalla Nuova Zelanda. Però lei aveva Aretha Franklin, aveva i pollici piccoli. Ma che... Fat Freddy's Drop con Clean the House al soundcheck, scusateci. When I open my eyes, I was already there, yeah. All the vision I had could not compare. So maybe I'll stay for a while, I don't know. The dream, she keeps calling, so I got to go. Soundcheck. Il suono della musica. Lo sappiamo, ci vogliamo scusare subito dopo l'informazione di Radio 24, perché le prime email che sono arrivate all'indirizzo soundcheck@radio24.it di appassionati di musica che seguono con appassionato trasporto il nostro programma si stanno lamentando. Chi è questo qua? Eccolo, è Larry White, professor Larry White in person, che oggi qui nel Groovemaster Studio ci sta raccontando i 10 improbabili, lasciatemelo dire, comandamenti per sopravvivere nello showbiz americano. Regole che arrivano dalla metà degli anni 50, e vedo Francesco Tromba però che sta prendendo appunti con interesse. Sì, perché nonostante il modo di raccontare, in realtà sono molto utili. Allora, Larry White... This is the Bible, the Vangelo. Non esageriamo, il Vangelo Lord dello showbiz. Lord, Lord, have sì. Mercy on my soul. Eccolo. You gotta get down to get up, Jesus, have mercy on my soul. We're going to number 6. Allora, andiamo dopo Till Bronner con la sua versione strumentale di Happy di Pharrell Williams, andiamo col comandamento numero che siamo arrivati... 6. Al numero 6. Learn to be a good liar. Ah, impara a essere un ottimo bugiardo, un bravo bugiardo. Ma perché? Perché? Scusa. Because, you gotta, if you're gonna lie, tu devi dire la bugia. Tu, a chi devi dire le bugie? A tua mamma, a tua nonna. Ma che c'entra? Noi parliamo dello showbiz. A quello che ti ha venduto la benzina, che dice oggi ho pagato. No, non è pagato, no, io ho pagato. Guarda qua, io, i soldi stanno lì. Ma quelli erano i soldi di quell'altro. No, io l'ho messo io. Quello... Tu devi imparare a dire la bugia bella bella. Fai che tu stai suonando e hai sbagliato solo tu. Hai sbagliato chiave. Oh. Hai fatto un do minore invece scusi, di do settima. Scusi, professor, dimmi. Posso fare una domanda? Dimmi. Nella metà degli anni 50, perché per un artista era importante saper dire bugie? Ecco, così cerchiamo di chiarire. To advance, avanzare, andare avanti e mai guardare dietro. Tu devi sempre dire, anche se non è vero, io ce l'ho più grosso di te. Questa è la vera verità, capito? Allora quello che ti guarda e dici, non è vero, no, è vero, fammelo vedere, no, non te lo posso far vedere. Sì, stiamo parlando di discografia, quindi sì, il catalogo, parliamo del catalogo. Sì, il catalogo deve essere più esteso. Se tu per esempio suoni un tenore, sax, e dici, mio tenore il, più grande. Il mio è un baritono, è più grande. Esattamente, meno male che abbiamo precisato. Perché il contenitore più piccolo? Andiamo avanti col prossimo comandamento. In un modo o nell'altro, alla fine ti scoprono la verità, viene fuori. Tu vai avanti con la bugia. Ma, tu dici, c'è scritto, learn to be a good liar, impara a essere bravo bugiardo. Mi scusi, professor White, fra gli artisti, grandi artisti che lei ha incontrato, mi può dire il più bugiardo? James Brown. James Brown. James Brown. È più grande che lui ha inventato io la sono bugia. The Godfather Soul. Sì. He was not the Godfather. No. No, I hear so many fucking people out there. I could be the Godfather Soul. Non era il padrino Soul, se lo diceva da solo. Yeah, andiamo exactly. avanti. That's a good lie. Quello sì. è bravo di dire la bugia. È una bella bugia. Number 7. Okay. When there's no way out. Aspetta, scusi. Yes? Comandamento numero 7. Con calma. When there's no way out, pray to Jesus to give you funk. Ecco, la puoi tradurre tu questa perché io non vorrei... Quando non c'è niente da fare. Prega Gesù di darti il funk. Di darti il funk. Questo però me lo ha detto, sai che questa è importantissima, me lo disse proprio James Brown. In un'intervista che gli fece, lui mi disse perché Gesù mi ha dato il dono del funk. Me lo disse exactly. proprio lui. Exactly. Un'intervista fatta per Stream, prima che diventasse Sky. Sì. Exactly. Esattamente. Exactly, exactly. Because quando tu ti prendono con le mani nel sacco, si dice così, no? Sì. E tu non c'hai niente, se rimani, ti fai venire fuori il funk. Tu balli e canti. Hup, hup, hup, hup, get up, get on. E quelle guardano, dimenticano che è tu sei colpevole. È fuori di testa, completamente. No, è la verità. Sì, sì, sì, certo, Jesus, certo. Jesus will show you the way. Siamo al settimo, Yes. Velocemente l'ottavo, perché così poi lasciamo gli ultimi due. Okay. Number 8. Numero 8. Keep your car clean. Ecco, questo è bellissimo, non ne capisco il senso. Tieni sempre la tua macchina pulita e lucidata. Yes. È giusto. Perché? Because if you have a guest, if after the ecco, show, se hai un ospite dopo lo show, tu hai rimorchiato qualche bella ragazza, bambina disposta che tu vuoi fare quella cosa lì dentro la macchina sporca. No. Today you have to have a clean car, macchina pulita e lucidata anche, lucidata. La mia puzza di cane. Non va bene. E tu lei dirà, tu mi hai cambiato per un cane tuo. No. Sono sicuro che Speranza Spalding la macchina ce l'ha, ecco, profumata come l'alito di Aretha Franklin di Violetta. E Speranza Spalding con Algebra Blessed in Black Gold. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. Soundcheck, il suono della musica. musacchione ai vertici della categoria con The Incredible Jimmy Smith al suo organo Hammond e Keb Mo, una tematica tipica del blues, la sofferenza per l'amore, questo ragazzo che torna a casa e dice: "Hey baby, who do you think I am?" Amore mio, chi pensi io sia? "Every time I walk in the front door." Tutte le volte che io entro dalla porta principale, "I hear the back door slam." Sento che la porta posteriore si chiude. Perché? Lui si capisce di essere cornuto. Ecco, è una tematica tipica del blues, Francesco Tromba, la sofferenza questo, per l'amore. Lui ama. Lui ama. Ama lo stesso, anche con le corna. Capito? Questa è una bella cosa. Bella. Bene, meno male siamo arrivati agli sgoccioli della puntata con l'ospite, potrei dire, quasi indesiderato oggi, professor Larry White, per raccontarci, dopo la bellissima puntata di ieri con Felice Limosani sulla comunicazione contemporanea, le regole più importanti dello showbiz americano dagli anni 50 a oggi, però non saprei. Sì, ma in realtà sono più regole di vita oggi, magari, no? Ecco, se consideri che il documento sia importante, poi gli facciamo una bella fotografia e puoi pubblicare tutto su Twitter, Facebook e via dicendo. Professor Larry White, siamo arrivati al comandamento numero 9. Bene. Commandment number 9. Pay attention, please. Sì. Only do good drugs. No. Traduci, per favore. Sì, fatti solo di droghe buone. Buone, ecco. Perché la droga, allora, cattiva, avrete capito sick. Che stiamo parlando con una persona ammalata, andare in ospedale, indefinibile, non va bene, non va bene. Inaffidabile. Un pochettino fatto, quello va bene. Sì. Io mi ricordo sempre nel giardino della mamma di Otis Redding. Lei cresceva queste piante meravigliose. Di medical perché... marijuana, perché adesso la medical marijuana è legalizzata in molti stati in America. Ah, non era medical, era solo buona. Sempre la mamma di Otis Redding. Che donna, eh? Da lei parte tutto. Sì. Andiamo. Number 10, you want number 10? Oh, finalmente l'ultimo comandamento e chiudiamo la puntata. Pay attention, you ready to translate? Yes. Siamo pronti. Have them all, peele tutte, but love only one. Ecco, prendile tutte, ma amane soltanto una. Bene, questo exactly. questo è carino. You can't say no. Somebody come and give you the booty. Se qualcuno viene e ti dà quella roba lì, tu non puoi dire di no. Fai figura brutta. Magari tu stai però... lì con la macchina pulita, l'alito tutto a posto e dici di no, tu le devi prendere tutte, però tu devi amare soltanto una. La tua donna. Esattamente, exactly. God bless you. Allora, regole improponibili, credo, oggi. Ma da fotografare. Da fotografare come documento ufficiale. Vorrei ringraziarti, Mr. Larry White, e ti chiederei per favore di abbracciare con una pacca sulle chiappe il mio amico Andy Luotto, visto che lo conosci bene. Nice boy, good boy. Sì, se, bravo ragazzo. Se tu vuoi altre 10 regole, scrivi no, altre 10 regole. Ma non adesso, magari la prossima volta che se ci faranno continuare la produzione, naturalmente dopo la tua partecipazione, mio caro Larry Andy. Allora, grazie a Larry White, grazie a Francesco Tromba, noi ci risentiamo per la seconda parte dalle 19:15, perdonateci, è andata così, ma succede quando Larry White è nel nostro studio. Che c'è? Jesus, qua. Have mercy on my soul. Herbie Hancock con Johnny Lang e Jazz Stone in When Love Comes to Town. A più tardi. Gotta get up to get down. Gotta get up, get down. Gotta get on the good foot. Get it on the good foot. Can I cut it off? Yeah. Can I cut it off? Yeah. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. I feel good, just like I knew I would. Out of sight. All right. I love y'all. Goodbye. I was a sailor. I was lost at sea. Under the waves before love rescued me. I was a fighter. I could turn on a thread. Now I stand accused of the things I said. When love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town, I'm gonna catch that flame. Maybe I was wrong to ever let you down, but I did what I did before love came to town. Check 1, 2, mic check 1, 2, mic check 1, 2, mic. Microphone check 1, 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegè Telesforo. Turn it on. dopo l'avventura di questo pomeriggio con la partecipazione di Larry White, che poi non è altro che il nostro amico Andy Luotto. Mi sono divertito tantissimo, mio caro Francesco Tromba, ad ascoltare i 10 improbabili comandamenti dello show business americano. Siamo tornati qui dal Groovemaster Studio per questa seconda parte dedicata, come sempre, agli appassionati di jazz. Allora, come va? Tutto bene. Il contenuto, in realtà, secondo me, dei comandamenti non era sbagliato. Cioè... Non era sbagliato, no, forse no. Era la forma. Sì, era il modo di divulgarlo. Improponibile in radio oggi. Allora, direi di passare subito alla musica e vorrei proporre agli appassionati di jazz qualcosa di meraviglioso, ovvero due musicisti che hanno fatto la storia del jazz, due musicisti bianchi, il sassofonista polistrumentista Jimmy Giuffre con Jim Hall, celebre chitarrista, anche lui uno dei maestri della chitarra, in trio, da un cofanetto che contiene ben 4 CD, mio caro Francesco, Complete Studio Recordings, Jimmy Giuffre, Jim Hall Trio, una registrazione che ci riporta al 1958, esattamente fra New York e Los Angeles. Sì, abbiamo qui tutta la session completa delle registrazioni e il brano che vi voglio presentare è un classico del repertorio di Jimmy Giuffre, forse la composizione più famosa di questo strepitoso musicista, noto clarinettista ma anche sassofonista tenore, contralto, baritono e bravissimo pianista. Jimmy Giuffre in studio di registrazione ha la possibilità, con la tecnologia avanzata di allora, quindi il multitraccia a 8 piste, di realizzare una sua composizione intitolata Four Brothers, e i 4 fratelli in questo caso sono le 4 partiture per tenore scritte da Jimmy Giuffre, che si sovraincide, quindi da solo realizza tutta la parte completa, che poi qualche anno più tardi viene realizzata da 4 eccellenti tenoristi, ovvero? Sì, erano 3 tenori e un baritono. E un baritono, e che era Serge Chaloff, il baritonista. Esatto, e i 3 tenori invece erano Stan Getz, Zoot Sims e Herbie Stewart. Herbie Stewart, invece questa è proprio la versione originale scritta da Jimmy Giuffre e realizzata con Jim Hall, che si sente pochissimo nella registrazione. C'è anche un pianoforte, non è indicata nella fra i credits la persona che ha realizzato la take di pianoforte, ma secondo me è proprio Jimmy Giuffre che ha fatto tutto da solo. Quindi questa è la tecnologia di allora per Four Brothers, Jimmy Giuffre e Jim Hall al soundcheck di Radio 24. New York 1958, per la prima volta un musicista di jazz utilizza la tecnologia avanzata di allora, quella multitraccia, 8 tracce a disposizione per Jimmy Giuffre, che sovraincide per 4 volte il suo sax tenore per creare una delle sue composizioni più importanti, Four Brothers, con la partecipazione di Jim Hall. Lo dicevamo, quasi non si sentiva Jim Hall in questa take. Sì, era più importante. Era quasi più evidente il pianoforte. Lo ripeto, secondo me è registrato proprio da Jimmy Giuffre. Direi di continuare con altri musicisti bianchi che hanno fatto la storia del jazz, e quindi vorrei apprezzare con te un'altra collaborazione ai vertici, quella che vede protagonista il sassofonista Lee Konitz, sempre con Jimmy Giuffre, ma anche Jim Hall alla chitarra e un giovanissimo Bill Evans al pianoforte. Ti fa piacere, credo? Sì, facciamo una sorta di controbam. No? Un controbam, sì, perché abbiamo parlato di BAM, Black American Music, il movimento di oggi, quello creato dalla visione contemporanea del trombettista Nicholas Payton, che vuole la Black Music eseguita solo da musicisti neri. Sì, lui dice non solo da musicisti neri, però in realtà alla fine bisogna suonare come dei neri. Per... Se non fosse che musicisti bianchi hanno fatto e faranno la storia del jazz, che sì, musica democratica sempre e aperta a tutti. Certo. Allora, ascoltiamo Lee Konitz qui al soundcheck con Everything I've Got, da questa recente pubblicazione, sì, una ristampa, 2 vinili in un solo CD, You and Lee e Lee Konitz meets Jimmy Giuffre qui al soundcheck. Everything I Got Belongs to You, Lee Konitz. Mm-hmm. Soundcheck, il suono della musica. I guess I'm just a lucky soul and soul. A lucky soul. Avrete riconosciuto la voce di Tony Bennett da questa vecchia registrazione che viene riportata su CD, che comunque ci ripropone in questo booklet un po' il sapore e l'atmosfera del vinile di un tempo, soltanto che, ecco, non profuma come il vinile. No, non fa assolutamente lo stesso quell'effetto. Tony Bennett accompagnato dall'orchestra di Ray Conniff qui su Radio 24 dopo l'informazione in I'm Just Lucky So and So. Tony Bennett interpreta questo brano di Duke Ellington e sicuramente qualcosa di Duke Ellington canterà anche nella prossima edizione di Umbria Jazz, perché c'è questo concerto evento molto atteso dagli appassionati di jazz, anche per curiosare, andare a curiosare e verificare sul campo come se la caverà Lady Gaga. Sì, insieme la strana coppia, diciamo, perché è la strana coppia, veramente una differenza anche di tra generazioni. Però adesso mi sa che sono diventati anche amici, hanno realizzato due dischi insieme, l'ultima pubblicazione è andata anche molto bene con le vendite. Forse sì, si aspettavano un Grammy Award, ma non ci sono riusciti. No, magari però l'anno prossimo, c'è ancora tempo anche per l'anno prossimo. Allora, visto che stiamo parlando di concerti e di questo evento con Tony Bennett e Lady Gaga, vediamo che cosa gli appassionati di jazz possono andare a vedere la prossima settimana, proprio in questi giorni. Sì, allora, se fate in tempo stasera vi consiglio di andare al CISIM di Ravenna, dove si esibirà Francesco Berzatti. Invece martedì 5 e mercoledì 6 al Blue Note di Milano ci saranno i Manhattan Transfer. I nuovi Manhattan Transfer, dopo sì, il lutto di Tim Hauser, no? Scomparso. Invece giovedì, sempre al Blue Note di Milano, ci sarà Giolovano. E poi inizierà il Ravenna Jazz Festival con Sarah Jane Morris, Diane Reeves, anche Arturo Sandoval e Gregory Porter, dal 7 al 10, quindi fino a domenica prossima, da giovedì fino a domenica prossima. Poi vorrei ricordarti tra l'altro che anche tu suoni sabato prossimo, non so come faremo con il programma. Sì. Lo so, infatti c'è il Festival di Jazz anche a Vicenza. Sì, anche lì. Un bel cartellone anche lì, con l'organ trio di Max Ionata ci organizzeremo tecnologicamente per realizzare la puntata da Vicenza, vedremo come fare, ci inventeremo qualcosa. E poi un'altra data che volevo ricordarti, non so se tu sei un appassionato di Tuck & Patty. Li conosco, sono anche amici. Saranno di nuovo in Italia giovedì 7 al Teatro Magnani di Fidenza, l'8 al Naima Club, la casa del blues di Forlì. Allora direi adesso di continuare con un altro musicista bianco, un altro contraltista meraviglioso che oggi viene riscoperto dai più giovani. Si tratta di Art Pepper, fortissimo. Sì, grandioso. Proprio. Allora, The Art of Pepper, questo è il titolo del CD che viene pubblicato nuovamente, anche questa è una pubblicazione in origine del 1957, in studio il primo e il 2 di aprile, Art Pepper con Carl Perkins al pianoforte, Ben Tucker al contrabbasso, Chuck Flores alla batteria, realizza Holiday Flight, una sua composizione. Soundcheck, il suono della musica. Do la bravissima Anita O'Day al soundcheck di Radio 24 in frenesi per questa cantante che è scomparsa nel 2006 alla veneranda età di 80 e qualcosa. 87 anni. 87 anni, una delle mie cantanti preferite, purtroppo per lei contemporanea di Ella Fitzgerald, ma molto apprezzata dai suoi colleghi e anche lei ha una storia interessante, vero Francesco? Sì, lei ha iniziato a fare in realtà la cameriera in un locale dove c'era musica dal vivo, anche jazz, e poi da cameriera è diventata... È salita sul palco una sera e lì nasce la carriera e la figura artistica di Anita O'Day. Allora, abbiamo poco tempo a disposizione, però ancora una bella manciata di minuti per apprezzare un altro musicista che ha rivoluzionato la visione armonica del jazz, e quindi vi sto parlando del pianista Bill Evans, che tutti noi abbiamo apprezzato e conosciuto insieme a Miles Davis in Kind of Blue, meraviglioso, ma ne ha fatte di tutti i colori, ha registrato tantissimi dischi, e famosissima è questa registrazione Interplay Session, The Complete Interplay Session, con due organici diversi, e il brano che vi voglio proporre è un blues minore modernissimo che si intitola Loose Blues 1962, con Jim Hall alla chitarra, Zoot Sims al tenore, Ron Carter al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Sì, sembra un pezzo appena prodotto, non prodotto. Il tema 62. È modernissimo, da imparare e da proporre in concerto. Bill Evans chiude il soundcheck, noi ci risentiamo quindi il prossimo weekend, ci risentiamo sabato prossimo. Sì, da Vicenza forse, non lo so come faremo. Beh, qualcosa ci inventeremo. Quindi sabato prossimo a che ora siamo in onda? Alle 19.15. 19.15, poi la domenica il doppio set 15.30 e 19.15. A tutti voi grazie, buona settimana e buona musica da Gege Telesforo. E da Francesco Tromba. ¶¶